Harry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. E il viaggio continua. Buongiorno, sono Enzo Argante, il traghettatore. Il viaggio continua e questa puntata è una puntata un po' particolare perché andiamo sopra le righe, no? Ma vi lascio anticipare il tema dal nostro sommario. Un professore, anzi preside, sul palco per combattere lo spreco con l'aiuto del vignettista Altan. Prodotti elettronici e pneumatici, due consorzi per recuperare il recuperabile. Un sociologo ci salverà, l'ingorgo, ovvero come sopravvivere al troppo. Perché andiamo sopra le righe? Perché questo professore, anzi preside, ma non quello di scuole superiori, ma preside di accademia, è Andrea Segre. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ecco, il professor Segre sarà con noi durante tutta la trasmissione, aiuterà il traghettatore in questo viaggio per conoscere, capire e quindi combattere lo spreco. E il professore ha scelto un modo per approcciare questa problematica, ed eccola qui sopra le righe, con il teatro. Cioè, lei è diventato attore, professore. È così, sì, sono diventato attore, in realtà interpreto me stesso, ecco, non è difficile. Interpreta se stesso nel senso che lei, vabbè, quando poi insegna agli studenti, anche lì tutto sommato c'è una, come dire, interpretazione del ruolo, vero? Assolutamente, anche facendo lezioni si recita un po'. Per me l'importante è comunicare a più persone possibile, non soltanto agli studenti, i temi legati allo spreco, alla sostenibilità, ai rifiuti in questo caso, perché ciò che si getta via e che noi un po' consumatori viziati non acquistiamo più diventa appunto rifiuto, allora abbiamo trovato un modo per recuperare e fare del bene a qualcuno. Ecco, ascoltiamo un brevissimo stralcio dallo spettacolo per conoscere questo modo. Direi si chiama mercato dell'ultimo minuto, è un mercato dove bisogna fare molto in fretta, dove bisogna recuperare i prodotti che noi un po' viziati, noi consumatori descafalatori, un po' spreconi, lasciamo lì. Nel supermercato, e questa manna dietro le quinte, insomma, se si fa in fretta, si sta molto attenti, perché poi parliamo della sicurezza dei consumatori, insomma, si può creare una sorta di mercato alternativo, un mercato alla rovescia, insomma, non so come definirlo, dove, pensate, noi siamo tutti abituati, cos'è il mercato? Adesso io vorrei qui un PowerPoint o una lavagnetta almeno per disegnare. Più forte di lei, cioè. Più forte di me. Per disegnare le due curve, domanda, offerta, poi si incrociano, il prezzo, questo poi è il mercato. E no? Quindi lo yogurt che è negli scaffali del supermercato, che ha ancora 48-60 ore di vita, perché la scadenza è fra due giorni, fra due giorni e mezzo, fra tre giorni, che fine fa? Beh, diventa un'offerta potenziale. Ecco, professore, intanto chi era la persona che assieme a lei ha condiviso il palcoscenico di Spreco? Lo spettacolo si chiama Meno Spr più Eco, proprio per rompere questa parola e trasformarla in positivo, appunto, e il dialogo che io faccio è con Massimo Cirri, che è l'ideatore e il conduttore di Caterpillar, una trasmissione molto attenta ai temi legati all'ambiente, alla sostenibilità. E poi ci sono le musiche, le canzoni di Mirko Menna, che è un cantatore molto noto, che ha composto dei testi sul tema, diciamo, Manna dal cielo, proprio il primo pezzo che lui lancia, cioè tutti questi prodotti che vengono messi uno sopra l'altro, tipo lo yogurt, che non si acquistano più perché semplicemente sono vicini alla scadenza ma non sono ancora caduti. E soprattutto ci sono le figure, le vignette di Altan, 10 tavole che ha fatto per questo spettacolo, che basterebbero queste per capire cosa sta succedendo. Professore, la cosa che mi piace molto e che è probabile sia una delle spiegazioni anche del successo che sappiamo lo spettacolo ha avuto, è proprio quello di parlare di argomenti importanti, va da sé, di grandissima attualità, ma con una modalità, con un linguaggio che è quello dell'intrattenimento, non quello dello spettacolo teatrale, che, come dire, incoraggia, avvicina la gente, non è ponderosa al tema, non pesa sulla coscienza, ma anzi diverte. Sì, io devo dire la verità, avevo in testa, essendo un professore universitario, direi abbastanza serio, di fare una conferenza scenica, cioè questa è la formula. Poi dopo, quando ho capito che bisognava avere un regista, bisognava avere delle musiche, un palco, tutta un'organizzazione, insomma siamo arrivati allo spettacolo e il produttore, c'è anche un produttore, un distributore, mi ha detto: guarda, non ti devi vergognare, tu interpreti te stesso e devi dire le cose che dici sempre, e così ho fatto, e mi ha spiegato che questa è una nuova forma, diciamo, di teatro civile, dove temi importanti, declinati in modo, diremo così, in chiave divulgativa e talvolta anche un po' divertente, fanno poi riflettere il doppio rispetto magari a una conferenza scientifica dove ti ascoltano in quattro e magari non capiscono in tre. Mi vengono in mente, vabbè, Davide Paolini, che è stato forse un po' l'uomo che ha iniziato, ma lo stesso Marco Travaglio, usano molto questa tecnica teatrale per contattare, diciamo così, la massa. Esatto, è proprio, ecco, e ci potrebbe aggiungere Pier Giorgio Di Freddi, Margherita, certo, Hack, Corrado Augias, sono tutti, hanno fatto esattamente lo stesso, diciamo, lo stesso percorso, prima di me naturalmente, e con un successo veramente incredibile. Ecco, lei ha rappresentato più volte lo spettacolo, l'abbiamo visto al Green Social Festival di Bologna qualche settimana fa. Se sarà una vera e propria tournée? Beh, usiamo pure questo termine, chiamiamola così, visto che fatica, insomma. Sì, però quello è. Facciamo una tournée che adesso partirà a maggio e andrà nelle piazze, nelle feste più importanti, i festival del nostro paese, e si concluderà a ottobre, quando diciamo avremo l'evento clou, che saranno le giornate europee contro lo spreco, la data è ancora da stabilire, dove ci sarà un momento, diciamo, di riflessione, anche di presentazione di dati e di soluzioni su quanto e cosa si spreca. Iniziamo dal cibo, che insomma il nostro bisogno primario, cosa si spreca dal campo alla tavola e quali sono le soluzioni, da un lato per recuperare ciò che si spreca, tipo last minute market, che è uno spin-off poi dell'università, e dall'altro anche come ridurre lo spreco, perché questo è il vero obiettivo, cioè riduciamo lo spreco, non alimentiamolo perché abbiamo qualcuno che ha fame. Ecco, quello dello spreco, a ben guardare alla luce della gravissima crisi economica mondiale, oggi finalmente il tema è diventato d'attualità, cioè adesso capiamo quanto sprechiamo in tutti i campi, ed è questo brevissimo viaggio, ma non sarà l'unico, di Ferribot nello spreco, infatti un po' ce lo dimostrerà anche su altri fronti, per esempio quello che dirige Danilo Bonato del consorzio Remedia, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Il suo consorzio, per carità, grazie a lei di essere venuto. Il suo consorzio si occupa del riciclo delle apparecchiature elettroniche. Ecco, anche questo capiremo oggi in maniera, direi, molto efficace, è una forma di spreco. Quello che noi buttiamo via e che non recuperiamo. Quel mercato alla rovescia, giusto, professore, come lo chiama lei? Mercato alla rovescia. In realtà lo spreco, se ci pensiamo bene, è un fallimento del mercato, perché le imprese, qualsiasi siano, sono lì per vendere, e allora l'eccedenza è uno sbaglio, è un qualcosa legato al consumatore che per esempio non acquista il prodotto che è un po' danneggiato, la confezione, piuttosto che la scadenza ravvicinata. Allora poi noi dobbiamo agire all'interno del mercato e far capire a tutti, diciamo, i portatori di interesse, dai donatori ai beneficiari alle istituzioni, che è un vantaggio recuperare. Infatti noi non a caso abbiamo applicato per far funzionare questo mercato al rovescio, diciamo, che funziona attraverso il dono, quindi non c'è più il prezzo. La teoria, c'è un'offerta, no? Sì, la teoria dei giochi, che cioè è una strategia win-win, cioè ogni portatore di interesse, chiunque partecipa a questo gioco, che doni, che riceva, che sia l'istituzione, il comune cittadino, guadagna qualcosa, e noi glielo dimostriamo con i numeri, altrimenti non funziona. Danilo Bonato, allora invece Remedia fa qualcosa di molto preciso, molto concreto e molto strutturato. Sì, perché il nostro lavoro riguarda proprio la riduzione dello spreco attraverso la gestione dei rifiuti elettronici. Per capirci, basti pensare a quanta elettronica abbiamo in casa, dal telefonino al televisore, al frigorifero, al tostapane, e sono tutti prodotti che una volta che non utilizziamo più, gettiamo via, portiamo in una isola ecologica quando va bene. Piuttosto che in mezzo alla strada, quando va male. Piuttosto che invece in mezzo alla strada, quando va male, perché non sappiamo cosa farne. Purtroppo purtroppo questo è il problema che il mio consorzio cerca di risolvere. Da un paio d'anni siamo attivi e cerchiamo di raccogliere sempre più rifiuti elettronici e soprattutto garantire il loro riciclo. Poi riprendete i rifiuti direttamente laddove si vendono i nuovi prodotti, cioè quindi grande distribuzione, nei negozi, è lì che li prendete, non a casa della gente. No, questo oggi non è possibile purtroppo. Il punto di partenza per noi è l'isola ecologica del comune, quindi il cittadino si reca a un ecocentro e voi andate lì e porta gratuitamente il vecchio elettrodomestico. Da lì noi ritiriamo e portiamo al riciclo. Tra l'altro da questi rifiuti si tira fuori, ci sono un sacco di metalli preziosi dentro, c'è oro, c'è argento, no? C'è rame. In alcuni di questi prodotti sicuramente, basti pensare ai personal computer, ai telefonini, quindi ci sono due obiettivi essenziali. Il primo, e lo metto davanti, è di tipo ambientale, perché oltre ai materiali di valore ci sono anche sostanze pericolose, per cui c'è un grosso aspetto di tutela della salute e dell'ambiente nel fare un buon riciclo, mettendo in sicurezza le sostanze nocive o dannose. Pensiamo ai circuiti dei frigoriferi con i gas che danneggiano, diciamo, l'ozono e quindi creano un problema di effetto serra. Ecco, però dico, se non ho capito male, quindi voi ritirate dalle isole ecologiche, non potete andare che nei grandi distributori dove sono grandissime le quantità potenziali di rifiuti. Se io acquirente, se io consumatore vado in un grande magazzino per comprare un nuovo televisore, li lascio quello vecchio, voi avete fatto bingo, avete risolto il problema vostro, ma soprattutto nostro, cioè del riciclaggio di questi rifiuti. E così però non è. Così non è in Italia, è così in altri paesi europei, ma stiamo aspettando, dovrebbe essere imminente l'arrivo di una legge che consentirà ai negozi di ritirare gratuitamente, a fronte dell'acquisto, è bene precisarlo, di un nuovo prodotto, di poter consegnare il vecchio. Sicuramente questo ci aiuterà ad aumentare anche in Italia la raccolta dei rifiuti elettronici. C'è, leggevo nella vostra presentazione, un progetto che si chiama Glass Plus, che trasforma i monitor e TV in piastrelle. Di che piastrelle stiamo parlando? Quelle del pavimento, quelle delle abitative? Esattamente, quelle per gli edifici, e qui è proprio il tema dell'economia del riciclo a cui accennava prima anche il professore. Cioè, noi dobbiamo ridurre al minimo quello che finisce in una discarica, dobbiamo eliminare gli sprechi, e l'esempio di Glass Plus è un progetto di successo che ha proprio riguardato un particolare rifiuto elettronico che è il televisore. Tra l'altro ci stiamo liberando dei vecchi televisori, stiamo tutti passando ai nuovi modelli. Digitale, quelle robe lì, certo, è il momento, esatto. È il momento. Grazie, direttore Danilo Bonato di Remedia. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il viaggio continua, il viaggio nello spreco con Andrea Segre, preside della Facoltà d'Agraria di Bologna, di professione, occasionalmente attore teatrale col suo spettacolo Meno Spreco Più Eco. E professore, abbiamo parlato di un tipo particolare di rifiuti che magari ci sfugge, televisioni, prodotti elettronici, da cui si ricava tantissimo, piastrelle ma anche metalli preziosi. Nel suo spettacolo non ne parla però, o sì? Sì, perché in realtà la Swinut Market, che è un po' il pretesto, questa impresa dell'Università di Bologna, e quindi non è volontariato, ci tengo a dirlo, nuova professione, declina lo stesso principio di recupero oltre al cibo, e quindi anche con tutti gli altri beni. Siamo partiti dai libri, si chiama Last Minute Book, poi i farmaci e poi tutto il resto via via. Chiaramente ci sono delle modalità diverse, ma insomma si può fare. Il sistema è lo stesso, per esempio il sistema è lo stesso per un altro rifiuto eccezionale che riguarda, io credo, proprio tutti, nessuno escluso. Ne parliamo con Gianni Corbette, che è direttore generale di questo nuovo consorzio che si chiama, società consortile che si chiama Ecopneus, e non riguarda la mitologia greca come potrebbe sembrare la pronuncia, ma pneumatici. Voi vi occupate di recupero e riciclaggio dei pneumatici. Sì, Ecopneus è una società che è stata appunto costituita un anno fa dai principali produttori e importatori di pneumatici operanti in Italia per preparare uno strumento operativo pronto ad assolvere gli obblighi che la legge ha assegnato con un articolo, il 228 del decreto legislativo 152 del 2006, a chiunque immette nel mercato italiano pneumatici. Ecco, in questo momento quando io vado con la mia automobile da un gommista e cambio le ruote, quelle ruote lì che fine fanno? Il gommista cosa ne fa? Il Il gommista li deve trattare come rifiuto, a parte quei pochi che possono essere indirizzati alla ricostruzione, e quindi nella maggior parte dei casi, essendo appunto rifiuto, li deve consegnare a un raccoglitore autorizzato che glieli prende e li porta a un passo successivo presso un operatore che è in grado di frantumare questi pneumatici e produrre un materiale che può essere successivamente impiegato in un'applicazione. Ecco, e voi dove siete in questa filiera che ho appena descritto? Questa attività, che funziona come ho appena detto da anni in Italia, soffre però del fatto che è una filiera piuttosto slegata, una filiera con tanti operatori, molto frammentata e senza di fatto nessuno che riesca a tenere insieme il bando della matassa completa. Quindi abbiamo in Italia molta dispersione, abbiamo molta illegalità e quindi abbiamo veramente uno spreco di un materiale che, come si stava dicendo, ha due grandissime caratteristiche: se bruciato in opportuni forni, in opportuni impianti di incenerimento, è un ottimo materiale in quanto il potere calorifico del carbone, e se invece viene utilizzato come materiale di recupero, ha tutte le caratteristiche di elasticità, di resistenza alle condizioni atmosferiche, che ne permette un'ampia applicazione in materiali per l'isolamento acustico. Io qua leggo bitumi modificati, prodotti in materiale di isolamento, strade, pavimenti, campi da gioco, attrezzi. Campi, esatto, mescole per fondi strada, per scarpe, mescole per alcuni oggetti in gomma. Quindi gli impieghi sono veramente molti, però purtroppo oggi, non essendoci un coordinamento di tutto questo sistema, appunto abbiamo sprechi, abbiamo illegalità, abbiamo dispersioni. Il nostro ruolo, quello assegnato appunto dalla legge, è quello di sovrintendere al sistema, garantendo che tutto questo materiale venga raccolto porto a porta laddove viene generato il rifiuto, quindi presso i gommisti, stazioni di servizio, garagisti, che venga incanalato senza dispersione nei canali ufficiali, legali, autorizzati, fino ad arrivare a questi operatori della frammentazione, e poi da lì ho ancora il passo successivo finale della valorizzazione, che vuol dire appunto trarre grande vantaggio di questo materiale. Noi dovremo garantire che tutto questo flusso funzioni al 100%, perché saremo, come dire, controllati e penalizzati nel caso in cui non raggiungessimo l'obiettivo finale totale, e dobbiamo fare in modo che tutto questo avvenga anche con un costo il più contenuto possibile per il cittadino, che paga quando acquista un pneumatico nuovo il contributo per procedere poi alle operazioni di trattamento finale. Grazie, è stato chiarissimo Giovanni Corbetta. Grazie. Professore Segre, ancora una volta mi sembra che venga fuori, però se si può trovare un dato comune, sono i privati che prendono l'iniziativa di raccordare, coordinare, razionalizzare, attivare addirittura processi di recupero e di riuso. Sono i privati che si muovono, sia le media che Opneus sono consorzi attivati da aziende private. Certo, e questo ci deve far riflettere intanto sulla volontà, diciamo, e la capacità di intrapresa da parte dei privati in settori che possono apparire difficili, che hanno oltre a un'utilità economica anche ambientale, c'è poco da dire. Ma anche la riflessione va un po' sulle istituzioni, che arrivano sempre un po' tardi, perché manca la visione, sono degli incentivi, degli eco-incentivi che potrebbero essere dati per stimolare per esempio le donazioni. Se potrei fare tanti esempi adesso senza perdere tempo, che metterebbero un po' a regime, favorendo il recupero di beni senza arrivare, diremmo così, al rifiuto, e questo sarebbe un vantaggio per tutti. Poi c'è invece un settore in cui il pubblico si è mosso, in questo caso forse non sempre è stato gradito, cioè per esempio l'acqua. In questo caso sì, c'è un'attenzione del pubblico sulla gestione dell'acqua, che però non viene sempre visto con un atteggiamento positivo, la privatizzazione per esempio, e in realtà proprio nell'acqua ci sarebbe molto da lavorare proprio sull'argomento dello spreco. Sentite un po' la scheda che vi proponiamo. Quanta acqua è necessaria per produrre un chilogrammo di petrolio? 20 litri. Un libro? 35 litri. Un chilogrammo di carta? 40-50 litri. Un paio di scarpe? 60 litri. Un maglione? 200 litri. Un chilogrammo di alluminio? 300 litri. Un chilogrammo di grano? Da 500 a 1000 litri. Un chilogrammo di carne? 25-30.000 litri. Un'automobile? 380.000 litri. Per carità, non stiamo mica dicendo che non bisogna più mangiare la carne piuttosto che indossare un paio di scarpe, però certo sono numeri che fanno riflettere. L'uso dell'acqua indiscriminato, lo spreco dell'acqua potrebbe tornare ritorcersi contro fra non moltissimo tempo e diventare uno dei grandi problemi del futuro nostro e dei nostri figli, vero? Giorgio Triani, buongiorno, professore di sociologia delle comunicazioni di massa a Verona. L'acqua, tu, a me risulta fra l'altro che tu sia un grande esperto di acqua, anche se non è questo l'argomento di oggi. Intanto sono, come dico a volte con la battuta, sono esperto in acqua vite, che insomma è sempre assimilata all'acqua. Ma non c'entra col tema della trasmissione. Con l'acqua. A parte le battute, intanto direi, mi permetto di segnalare ai radioascoltatori che all'Università di Parma i miei studenti, perché ho un corso anche lì di giornalismo, alla laurea specialistica, facciamo da un anno un giornale che si chiama Water Online ed è all'indirizzo www.wateronline.info, che è un bellissimo giornale d'acqua, peraltro è nato sull'acqua. È giornale sull'acqua più che d'acqua, perché un giornale d'acqua fai fatica a prenderle in mano, no? Esatto, potrebbe essere anche questa un'idea comunque per il futuro, certo. il libro d'acqua, no, quello è comunque un giornale d'acqua, in quel giornale con i tanti studenti che vengono un po' da tutta Italia, fra l'altro il prossimo numero faremo un approfondimento sull'intero territorio nazionale sfruttando appunto le provenienze di tanti studenti sulle gestioni degli acquedotti locali. Una battuta, professore, perché siamo in chiusura di trasmissione e non c'è molto tempo come al solito, gli ultimi in questi casi non sono mai i primi. La verità è che in questa trasmissione tu ci sei perché hai scritto un libro, L'ingorgo, sopravvivere al troppo, edizioni Eleutera, ed è tutto sommato il contraltare dello spreco di cui parla il professor Segre. Una battuta, cos'è questo libro? Cosa scrivi in questo libro? Il libro cosa dico? Dico che osservo una realtà che ormai è ipertrofica in tutto, dai nomi, dei prodotti che sono ormai diventati superlativi assoluti, intimissimi, illissimo, le cubissime, insomma i nomi sono superlativi, gli oggetti sono sempre più grandi, la mocona, il tramezzone, il super Big Mac, quindi un mondo ipertrofico nei nomi, negli oggetti, nei prodotti, aumenta tutto a grandissima velocità, la memoria dei computer, le reti autostradali, diventano più grossi anche i meloni, le fragole, le cocomere, oltre che i centri commerciali, gli alberghi, le navi, insomma io racconto di un mondo che è nato da un mio disagio qualche anno fa quando sono entrato in un ipermercato e quando ho trovato una piramide, proprio una piramide altissima di macchine espresso per il caffè, ho avuto un attacco quasi di panico, sono dovuto scappare fuori e riguadagnare l'aria perché mi sembrava che in quel posto pieno di cellulari che suonavano, di schermi accesi, insomma, ho avuto il contatto con il troppo che mi ha quasi proprio dato un senso di profonda angoscia. Da lì, pensando che non sarei stato il solo, che non ero il solo, che molti altri avessero provato o che proverebbero insomma una sensazione del genere, è nata questa idea e lì ho raccolto dati, molti dati. Ed è nato l'ingorgo da bulimia. Professore, mi dispiace, non possiamo continuare, ma torniamo in trasmissione, prendo l'impegno anche per parlare di nuovo dell'acqua, okay. E per così facciamo ancora riferimento all'ingorgo. Professor Segre, grazie Giorgio Tiani. Professor Segre, mi sembra che ci sia una forte assonanza fra i due temi, no? Lo spreco e l'ingorgo, in realtà sono, come dire, faccia di una stessa medaglia. Due facce di una stessa medaglia. Assolutamente sì, perché in realtà noi ormai la Smart Market è un progetto che va per conto suo, la soluzione l'abbiamo trovata, ma stiamo lavorando a monte per ridurre lo spreco. Allora forse la domanda che ci dobbiamo porre è appunto tutto questo affollamento di beni che ci sommerge, beni, prodotti, usa e getta, che dobbiamo appunto, insomma, se c'è un piccolo danno, gettare via senza poterli riparare, che insomma ammontano, diciamo, creano questa montagna di rifiuti dai quali non riusciamo in nessun modo a liberarci, quindi non sappiamo più, la domanda che poi ci poniamo, se noi consumiamo per vivere oppure viviamo per consumare, è un bel dilemma questo. Vi lasciamo con questo dilemma, ma il nostro viaggio serve anche a leggere. Grazie professor Segre, grazie sentito ad Anita Panizzi in redazione e a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che questa trasmissione potete riascoltarla come tutte le altre su www.radio24.it. Alla prossima.